State bene? Sì. O siete ancora sotto shock che il pastore Mirko si è sposato? Che bello era la giornata ieri, anche il matrimonio. Bellissimo, vero? Chi ha goduto il tempo là a festeggiare e a celebrare? È stato un bellissimo, un onore anche per mia moglie Angela e per me essere parte di questo momento, non solo per il pastore Mirko e Giorgia, ma anche per voi come chiesa, no? Come è una cosa che come avete vissuto come chiesa. Era bello sentire le vostre voci ieri all'aperto, la vostra voce era forte lo stesso, bello la vostra presenza. Ok, allora... È sempre un piacere predicare qui. Devo dire la verità, non è perché sono una persona importante, eccetera, ma io non cerco, diciamo, occasioni di predicare, nel senso, perché lo facciamo così tanto in Austria, dove siamo, poi, come sapete, sono anche coinvolto nella chiesa a Bethel, a Bari. Però quando io dico sì a una richiesta, per me è molto importante se è un posto dove ne vale la pena seminare. Scusate un po', forse l'arroganza può sembrare, ma se ne vale la pena seminare, se il terreno è un terreno che porta frutto, perché questo farebbe ogni persona, come ogni contadino, penserebbe sto seminando su un terreno buono, no? E io penso che questa chiesa, il pieno Vangelo, è quello che rappresentate, quello che siete diventati nella storia di questa chiesa e negli anni, vi ha reso un terreno molto fertile, un terreno dove Dio vuole seminare molto. Sono sicuro che molto spesso ricevete messaggi che qualcuno direbbe: se noi dobbiamo credere tutto quello che ci viene detto, diventeremo una chiesa bombastica, diciamo, che invade l'Italia. Io direi sì. Sì. Infatti mia moglie Angela, quando eravamo sopra a pregare lì, mi ha detto: ma quanta gente di... quanto potenziale c'è qui, no? E quindi siete gente veramente meravigliosa. E una volta, quando vengo a predicare qui, nel futuro predicherò su. Ci sono delle paroline, piccole parole nella Bibbia, che sono molto pericolose. Una la menzionerò più tardi, ma questa parola per, no? Salvati per, usciti dalla schiavitù per. Questo per ci dice: non fermatevi dove siete, perché c'è una ragione maggiore ancora. E quello che voi come chiesa siete diventati, dopo quello che siete, il Signore mette per. È quello che vuole fare tramite voi. Sapete, noi siamo molto importanti per il Signore. Lui non ci usa per... diciamo, perché ha bisogno di lavoratori. Noi non siamo stati fatti, gli angeli sono così nel cielo, no? Gli angeli sono fatti per lavorare a pieno tempo per Dio, no? Noi esseri umani siamo stati fatti da Dio per essere amati, no? E quindi io penso che gli angeli sono un po' gelosi, no? È come loro non devono lavorare, no, loro sono lì per essere amati. Però quando siamo pieni di questo amore di Dio nella nostra vita, vogliamo dirlo agli altri, vogliamo che tutti sono partecipi di questa relazione, di questa storia romantica con Dio, uomini e donne. Quindi noi non lavoriamo perché Dio ha bisogno di lavoratori, no? Lavoriamo perché è una risposta al suo amore verso di noi, e ci divertiamo mentre lo facciamo, anche se a volte è una sfida fare quello che facciamo, no? Ma io voglio incoraggiarvi come chiesa. Voi come chiesa siete veramente un'ispirazione, per me anche come persona, e voglio incoraggiarvi ad andare avanti. E quindi la parola di oggi la troviamo nel libro di Isaia, al capitolo 60, aspetta un po', vero? Sì, 60, non l'ho scritto, ho scritto solo il verso, non l'ho scritto. Vedo. Allora, queste sono parole che Dio ha dato al popolo di Israele Quando loro erano ritornati da questa schiavitù, da questa, come si chiama? Non schiavitù, ma deportazione, sì. Erano ritornati, non erano più, diciamo, schiavi, non erano più prigionieri nella Babilonia, ma erano ritornati. Ma sapete, molti israeliti ancora non credevano in effetti che loro sarebbero diventati quello che Dio aveva pianificato per il popolo di Israele. Non ci credevano tanto. Quindi Dio gli manda un incoraggiamento. E anche se erano liberi, Dio dice al popolo di Israele, tramite il profeta Isaia, e sento che questa parola Dio lo vuole dire alla Chiesa Pieno Vangelo, e in modo diverso però a ognuno di voi, dovunque tu sei, Dio vuole dire alzati e rivestiti di luce. Perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché ecco le tenebre ricoprono la terra, nebbia fitta avvolge le nazioni. Ma, di insieme a me, ma. Di nuovo, ma questa è una parola piccolina ma molto pericolosa, ma ma su di te risplende il Signore e la sua gloria appare su di te. Cammineranno i popoli alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si sono radunati, vengono a te, i tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. A quella vista sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché le ricchezze del mare si riverseranno su di te. Quella è una parola molto bella, specialmente che siamo vicini al mare qua, no? Verranno a te i beni dei popoli, verranno a te i beni dei popoli. È molto importante questo, non so come avete vissuto questo periodo, oppure state vivendo questo periodo di questa pandemia, oppure come si chiama, non so come lo chiamate da voi, corona, eccetera, eccetera, Covid. Io dicevo sempre alle persone in Austria, la Chiesa non è chiusa, la Chiesa stiamo vivendo in una maniera diversa, ma non abbiamo mai chiuso. Non dimenticate che noi abbiamo iniziato in casa, l'inizio della Chiesa era in casa, quindi anche quando siamo a casa, giochiamo in casa. Quindi la Chiesa non chiude mai, non ha mai chiuso, siamo come i camaleonti, cambiamo nel contesto dove siamo, ci trasformiamo, ma la Chiesa vive sempre, la Chiesa non ha mai chiuso. Non si è mai fermata, siamo andati avanti in una maniera diversa, non si è mai fermata. Anzi, possiamo soltanto vincere da questa situazione, perché essere un po' più rilassati e, come si dice, flessibili ci fa sempre del bene. Però io so che forse ci sono persone qui che in questo periodo, come se si sono accasciati, ci sono chiese intere che si sono accasciate perché non hanno compreso. La riunione domenicale è molto importante, ma se non possiamo farlo, non cambia niente, andiamo avanti. Fatemi dire una parola che ho messo alla fine delle mie considerazioni oggi. Ci sono persone che hanno detto, ma cosa dice il Signore? Sapete, i profeti si sono proprio, come si dice, sforzati di sentire la parola profetica, e alcuni dicevano, ma c'è qualcuno che sa cosa dice il Signore in questo periodo? E sapete quello che io ho visto? Che Dio non sta dicendo niente. E sapete che non sta dicendo niente? Perché non c'è niente da dire. Perché non c'è niente da dire. Noi pensiamo che il cielo sta in panico, oh, Covid, dice no, fa niente, viene, passa, la Chiesa diventerà più forte. È tutto, sta andando tutto bene. Sono fatti per tempi come questi, no? Perciò quando Dio non dice niente, non è perché è arrabbiato, è perché dice andate avanti, non c'è niente da dire, andate avanti. Se Dio non dice niente nella tua vita, io mi ricordo quando era la scuola biblica in Inghilterra, venivano i profeti e io tossivo per farmi notare, no? Per avere la parola per me, no? quella a fianco a me riceve una parola profetica, a destra profetica, dietro di me profetica, e a me non mi colpivano mai, no? E una volta una persona mi ha detto: Gianni, la ragione per la quale Dio non ti dice niente è perché tu stai sulla via giusta. Perché ti devi dire qualcosa? Quello che ha detto prima vale ancora, non cambia idea. Però molto spesso quello che succede, noi ci accasciamo e ci sediamo, e Dio viene e dice: Chiesa, o tu ti chiami Giuseppe, Maria, Cataldo, c'è un Cataldo qui? No, c'è un Cataldo, non vedo un Cataldo, ok, no, forse sentendo online. E sono così tante affermazioni, come Gesù disse ai discepoli: voi siete, non ha detto diventate la luce del mondo, ha detto voi siete. Di alta voce a te stesso, io sono, io sono. Quando Dio viene, lui non esagera mai. Quando è andato da Gedeone ha detto: tu sei forte, sei un uomo valoroso, anche se le circostanze non mostravano questo. Dio dice sempre così: voi siete la luce del mondo, perché Dio ci chiama, ci afferma e dichiara su di noi, anche se non siamo al momento, ma dichiarandolo su di noi ci fa diventare, come ha detto Abramo: tu sei Abramo, padre di tante nazioni, anche se ancora non lo era, perché la sua dichiarazione ci chiama a diventare, ci spinge a diventare. Quindi qua dice al popolo di Israele, lo dice anche a noi, lo dice anche a voi come chiesa: alzati e rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla ora. Non brillerà, brilla ora su di te. Voglio che, se tu sei una persona che dici: ma se, Gianni, se tu vedi la mia vita, il mio stato, lo stato della mia vita, non puoi dire questo, ma Dio lo dice lo stesso. È molto importante. Non so se ve l'ho detto questa sera, una volta ho visto un film di una classe in America che nessun insegnante voleva prendere. Il film si chiama Dangerous Mind, non lo so chi l'ha visto questo film. E questa insegnante non sapeva molto quanto era pericolosa questa classe qui. E ha detto sì, volevo un lavoro, ha preso questo lavoro di questa classe, e poi quando è arrivata ha notato che sono tutti criminali, i giovani, non volevano studiare. Diciamo, facevano proprio... è una rissa ogni volta che c'era, diciamo, la scuola, no, eccetera. E un giorno questa donna ha avuto un'idea micidiale, una storia vera, è basato su un film di una storia vera. È entrata nella classe e ha detto: vi do un 10 a tutti. 10 era, diciamo... E questi ragazzi qua non avevano mai avuto un 10 nella loro vita. Dicevano: stai scherzando? No, dice, vi do un 10, ve lo dovete soltanto tenere il 10. E così fa Dio nella tua vita. Quando viene ti dice... la gloria del Signore, la luce del Signore è su di te, Piero. Non è, lo dice, vivi in questa luce ora, vivi sotto questa gloria e comportati in questa maniera, non guadagnatela la gloria, comportati in questa maniera che tu vivi sotto questa luce. E poi dice, poiché ecco le tenebre, sentite, nella versione inglese dice questo, dice, see darkness. Vedete le tenebre. Quindi quello che a me piace di Dio non è un Dio che dice la mia luce risplende su di voi, alzatevi, e ignora tutto. No, no, lui dice: guardate, guardiamo insieme le tenebre. Vi presento le tenebre. E non dice non guardare le tenebre, se no diventi negativo, se no ti perdi la fede. No, no, no. Sentite, Dio vuole farci resistenti alle tenebre. Non vuole che ignoriamo le tenebre. Non vuole che tu ignori i tuoi problemi. Non vuole che tu non vedi. Vuole che noi osserviamo esattamente quello che sta avvenendo. Però dice... poiché ecco le tenebre, guardate le tenebre ricoprono la terra, e oggigiorno si può dire veramente, no? Ci sono veramente, è una situazione per la nostra generazione, non l'abbiamo mai visto, per altre generazioni hanno visto cose del genere, peggio, di peggio anche, no? Però per noi è una cosa quasi bella, diciamo tenebre, diciamo, no? Tenebre ricoprono la terra, nebbia fitta avvolge le nazioni, e ora viene questa parola che abbiamo visto prima, ma... E questo è il bivio, questo è l'incrocio dove tutto cambia. Dio dice: guarda le tenebre, guarda il fatto che tu non sai come vivrai il mese prossimo, perché hai perso forse il lavoro, perché ci sono delle situazioni dove, dove le tue risorse sono finite, forse avevi un piano che non ha funzionato, avevi posto fiducia in una persona che ti ha deluso. Dio non dice, ignora queste cose, fai finta che non è successo niente, perché questo non fa bene alla salute, no? Ogni psicologo, vero, ti direbbe ignorare le situazioni, fare finta che non esistono, non è una cosa sana, perché vivono in noi lo stesso e al momento giusto, boom, escono, no? Dio non dice ignora le tenebre, dice guarda le tenebre. E poi dice, ma, diciamo insieme, ma. Di nuovo. Ma. Qualcuno deve fare delle t-shirts con un grosso ma. Tanti anni fa ho predicato una cosa simile in Inghilterra. Ho predicato sul Batman. Perché in inglese ma è bat. Bat. Batman. No. Anche un altro t-shirt, questo sto dando idee di business qua, Batman, no? Se dimentichi tutto quello che ho detto oggi, non dimenticare questo, ma ci sono molte persone che credono essere una persona di fede e di non confessare le cose negative. No, no, no, no. È sempre importante. Alla fine di quello che tu hai detto, cosa c'è? A causa di questo, perciò sono così come sono? A causa di questo non abbiamo finanze? A causa di questo non... A causa di questo? Oppure c'è alla fine dello statement, di quello che tu dici, della spiegazione della situazione, alla fine c'è un ma che cambia tutto. Questa è la vera forza, che quando uno ti chiede come stai, dice hai 5 minuti? Sì, 5 minuti lo do. Oh, a casa mia, i miei figli sono diventati come l'anticristo, no? E poi mia moglie è malata, al lavoro non si sa niente. E quelli dicono, mamma mia, non ti avrei dovuto chiedere. E poi alla fine tu dici, ma non è la fine della storia ancora. Questa ci rende autentici, no? È molto importante che la Chiesa di Cristo è autentica, che non viviamo in un mondo che non è vero, perché la gente, sapete, una cosa che è molto evangelistica, che cos'è? Quando la gente viene e vi osserva, quando vedono una Chiesa che vive nello stesso mondo come il loro, però alla fine c'è questo ma. Allora sanno, ah, io fino a problemi ci sono anche io, ma dopo loro vanno avanti, sembra di avere un ma. Sembra di avere un ma, e questo ma non lo conosco. E questo ma puoi solo averlo se sei connesso con Dio, veramente. Io non saprei cosa farei nella mia vita se io non sapessi che quando sono arrivato alla fine della mia sapienza c'è un ma. E questo ma è una porta che si apre, no? Però è una scelta che tu devi fare nella tua vita. Oggi che cambi la tua confessione, che non ignori quello che dici, quello che devi fare è cambiarla aggiungendo il ma. Quindi forse come compito di casa oggi, che vai a casa da qualcuno e dici la tua storia e poi dici, aspetta, non ho finito. Dici, ma sì, lo sapevo già. No, aspetta, non ho finito. Ora viene una cosa nuova. Ma Dio opererà, perché la Bibbia dice, in ogni cosa Dio lavora per il bene. Non so se avete questa versione nella nostra Bibbia italiana. C'è una versione soltanto in inglese che la dice giusto. Dice, in ogni cosa Dio lavora. Non ogni cosa lavora, niente lavora. Molte cose non lavorano niente per noi. Molte situazioni dicono, ma che mi porta questo? Niente, a meno che Dio non sta lavorando dentro là, ti porta qualcosa. Quindi in ogni cosa Dio coopera per il bene. Romani, no? Ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. E poi dice verso 4, dice questo, alza gli occhi intorno a te e guarda, alza gli occhi. Qualcuno deve sentire questo ora. Alza gli occhi. Non guardare a terra, non guardare davanti o dietro, a te a fianco. Alza gli occhi. Ultimamente ho sentito un predicatore che predicava su questa frase del Salmo: io alzo gli occhi alle montagne, e lui ha detto la traduzione giusta è: alzo gli occhi al di là delle montagne, da dove il mio aiuto verrà. E ho detto wow, non l'avevo mai vista, al di là delle montagne. Non guardiamo alle montagne, guardiamo al di là delle montagne. Alza gli occhi. Ci sono alcune persone qui oggi che devono alzare gli occhi, che devono alzare gli occhi al di là di quello che vedi davanti a te. Alza gli occhi, non è ignorare, è un'azione di fede. Alza gli occhi. E non devi alzare gli occhi per guardare al di là di quello che è negativo, no? Alcuni di voi, ci sono alcune persone qui, devono alzare gli occhi per guardare al di là di quello che avete accomplished, compiuto fino ad ora, quello che avete raggiunto. Dio dice alza gli occhi, forse come chiesa Dio vi dice a voi, alzate gli occhi al di là di quello che è davanti a voi. Poi c'è anche una parola per alcune persone qui, che l'ho presa mentre pregavo stamattina su questa parola per voi, mi preparavo dentro. Il Signore mi ha dato questa aggiunta, perciò non l'ho mandata al team per la proiezione. C'è una parola che Dio dice ad alcuni qui: non essere una vittima. Quando la Bibbia dice rivestiti di luce, alzati, rivestiti di luce, tutto questo ci dice: Non subire quello che avviene nella tua vita. Non accettare questo, ma alzati, rivestiti di luce. Questo è l'opposto di essere una vittima di quello che sta avvenendo. Ora no, io non sto parlando del Covid, no. A parte questo, no? Molto spesso diventiamo una vittima della nostra vita. E Dio sta dicendo ad alcune persone: alzati, rivestiti di luce e non essere una vittima. Sapete, una cosa che Dio fa appena Lui viene a far parte della nostra vita, ci aiuta a non essere più una vittima della vita, delle persone, delle situazioni. Da quel momento in poi hai il diritto di non essere più una vittima. Perché se noi crediamo che in ogni cosa Dio lavora per il nostro bene, non siamo mai una vittima. E io non voglio dire sì quando ci sono delle cose che non funzionano, sto veramente parlando di cose che sono catastrofali, cose veramente perdite, morte di persone che amiamo, perdite veramente pesanti della nostra vita. In ogni situazione Gesù non lavora, Dio non lavora soltanto nelle cose che sono è stata una cosa difficile, ma non tanto difficile, c'è di peggio. No. In ogni situazione Dio vuole che noi cerchiamo quello che Lui sta facendo, che rispondiamo a quello che Lui sta facendo, a quello che Lui sta dicendo. Per non reagire, per non diventare vittima nella tua vita, ogni volta che succede qualcosa, sia buono, una cosa non buona, guarda Dio e dice: Dio, che significa? Lascia che Lui ti dà la spiegazione. Se tu lasci che la vita ti dà la spiegazione, molto spesso la spiegazione è sbagliata. La diagnosi è sbagliata. Sapete, se tu vai al dottore e ti fa la diagnosi sbagliata, puoi morire. E molto spesso noi facciamo la diagnosi sbagliata della nostra vita. Ci sono delle persone qui che si chiedono: ma Dio, perché sta avvenendo questo? Che significa questo? E Dio dice: non significa proprio niente. Come i discepoli, quando hanno trovato quest'uomo che era cieco dalla nascita, hanno chiesto: Gesù, ma chi ha peccato, lui o i suoi genitori? E Gesù dice: nessuno. Ah, così sempre? No, nessuno. E noi pensavo ci sia una risposta profonda, che i genitori e i nonni o i bisnonni hanno portato una maledizione sulla famiglia che è andata fino a questo ragazzo qua. No, tutte queste cose, tutte cose umane. Dio dice, che significa? Significa niente, significa che ora io mi glorificherò. E alcuni di voi devono sentire questa parola che ti libera oggi. Quando tu ti chiedi, ma Dio che significa? Dio forse dice anche a te, non significa proprio niente. Alzati, rivestiti di luce, chiudi come si dice, il vittimismo. È italiano vittimismo, si può dire? Ah beh, che bello. Cancella il vittimismo, alzati e comincia a camminare. Perché quando tu chiedi che significa, molto spesso il diavolo cerca di rispondere. E noi non sappiamo capire se è Dio o è il diavolo che ci sta dicendo la risposta. Giovanni 10, 17, questo non l'ho dato. Per questo dice, Gesù dice questo. Giovanni 10, 17, per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie. Voleva dire, io voglio che tutti sappiate che quando muoio nessuno mi ha tolto la vita. Io l'ho deposta, si dice, l'ho deposta. Io l'ho fatto, non nessuno l'ha fatto per me, l'ho fatto io, perché io sono un'offerta, un sacrificio, ma non sono una vittima. Gesù ha detto, voglio che tutti sappiate, non sono una vittima e nemmeno tu devi essere una vittima. A me la band può venire sulla piattaforma mentre io prego. Rimanete seduti, perché io voglio fare proprio un appello. Preparatevi, perché se tu senti di rispondere, e chiederò alle persone che dicono, se tu sei questa persona, alzati. Non è perché voglio pregare per te, possibilmente, ma voglio che tu dici, sì, questo sono io oggi e voglio fare questo, come si dice in italiano, statement? Una confessione, grazie, voglio fare questa confessione. Perché ci sono soltanto 3 minuti. Sì, guarda, ci sono tenebre, ma... E ci sono alcune persone qui che hanno avuto una confessione e alla fine di questa confessione voi volete aggiungere oggi questo ma, ok? Tu vuoi, sei la persona che dici, Gianni, io voglio dire, voglio aggiungere alla mia vita questo ma. Ma c'è veramente una situazione che è molto... Che come si dice, è difficile, non è, sì Gianni lo voglio dire perché è buono quello che hai detto, spero che vi ha fatto del bene, ma voglio dire veramente tu sei in una situazione dove tu devi aggiungere il ma, ok? E quindi se tu sei questa persona io ti chiedo di alzarti in piedi e dire, quando ti alzi dici ma. Chi deve dire ma ancora? C'è ancora una persona che deve dire ma? 3. Non è il numero che conta, è quello che conta che tu lo fai nella tua vita, ma. Yes. Ma yes, Jesus. Yes, Jesus. Signore, io ti chiedo che queste persone che si sono alzate non hanno più paura di quello che è la situazione, non sono più diretti, guidati da quello che sta avvenendo, ma questo ma cambia tutto. Questo ma cambia tutto. Non soltanto li porterà alla liberazione della situazione, ma anche li farà più forti per il futuro. Quando sentiranno, se prendi questa decisione ti costerà, diranno, non fa niente, lo so che mi costerà, ma. La seconda chiamata che voglio fare è questo, se tu sei una persona che dici, da oggi in poi non voglio più essere vittima, forse sei una persona che dici, se io sono nato, cresciuto in una famiglia povera, non forse, c'è una persona qui che dice, ha detto questo, non è online, è qui che ha detto, molto spesso ha detto, io vengo da una famiglia povera, e Dio dice: questo non lo devi più dire, perché non conta. Io sono ricco. Il tuo futuro non è determinato dalla famiglia dalla quale tu vieni. Devi essere orgoglioso della famiglia che tu, dalla quale provieni, ma non dire più: vengo da una famiglia povera. Ma ci sono tante altre ragioni per la quale tu puoi essere una vittima oggi. E se tu dici oggi, questa mattina dici: non voglio più essere una vittima, voglio cancellare il vittimismo nella mia vita, mai più dirò quello che ha fatto mio marito, quello che ha fatto mia figlia, quello che ha fatto mia zia, il mio datore di lavoro, niente, non lo direi più, perché queste persone qua possono soltanto essere strumenti che Dio usa per farti più forte, più creativo, più resistente. Solo se mia moglie mi amasse di più, se mio marito fosse più, mi comprendesse di più, eccetera, eccetera. Queste qua ti fanno vittima, non diventare una vittima. Ok? Quindi se tu sei una persona che dice: oggi voglio cancellare il vittimismo dalla mia vita, perché ti senti veramente una vittima, ti chiedo di alzarti in piedi. Questa è una confessione davanti alle persone qui, ma anche davanti al tuo futuro. Jesus name. Signore, io ti ringrazio per queste confessioni forti. Ci sono alcuni qui stamattina che stanno dicendo: ma alcuni stanno dicendo: cancello il vittimismo della mia vita, non sarò più vittima, perché la mia vita è troppo preziosa per darmi nelle mani del vittimismo. La terza chiamata è questo: forse sei la persona che deve alzare gli occhi. Veramente, hai troppo. Forse il Covid ti ha preso troppo, pensi solo a questo. E Dio dice: alza gli occhi e guarda. E quando guarderai, abbiamo letto agli israeliti, Dio ha detto: quando vedrete questo, quando alzi gli occhi e vedi una cosa diversa, gioirà il vostro cuore. Anche lo stato d'animo nella tua vita cambierà quando alzerai gli occhi e vedrai, cambia lo stato d'animo della tua vita. Quindi se tu sei la persona che dice: Dio, io voglio alzare gli occhi, ti chiedo di alzarti ora. Se hai bisogno di fare questa confessione, alza gli occhi e guarda. C'è una persona qui che Dio dice: quando guardi, tu stai guardando nello specchietto, no? Dove si guarda indietro, no? Della macchina, come si dice? Lo specchietto, vero? Quando tu alzi gli occhi e guardi, stai guardando nello specchietto e guardi indietro, e tu dici: ma come indietro? Indietro ai sogni che tu avevi, che hai messo da parte. Alza gli occhi e guarda. Spirito Santo, io sono così contento che ora, quando smetto di parlare, tu continui a lavorare, perché le confessioni che sono state fatte oggi sono così potenti. Ma cancellare il vittimismo e alzo gli occhi è una cosa che va avanti oggi, domani, dopodomani. Ti chiedo, se hai bisogno di aiuto a riflettere su quello che hai sentito, forse puoi andare dal pastore Sara, da altre persone che possono aiutare in questa chiesa, fanno consulenza, eccetera. A volte abbiamo bisogno di parlare con qualcuno, riflettere con qualcuno per aiutarci a alzare gli occhi, a alzarci dalla situazione dove siamo. Amen? Amen. Dai un applauso a Gesù, è così grande Gesù per la sua parola.